Natale, buon Natale a tutti, buon Natale. Canale Grissi, ora ora Canale Grissi, cambio cambio! Chi è? Farfallino! Uia! Ui! CQ10! Brigida! Era scattato un pezzo! Brigido! Attaccata un pizzo! Brigido! Fiorellino, aiuto, rispondi! Ebbene, Natali, sta a posto? Tutto a posto e da mettere a posto! Ebbene, Manuel! Sì, siamo appena rientrato, adesso inizio a aspettare qua, salsiccia, formaggio! A da te, oh, io la giuburui no che la salsiccia rugaggio mi affetta Natali, affetta mezzo rosso, mi bevo affettiamo non vedi Manuè, io stamattina sono sceso a farmi un giro a Plattamona perché dovevo farmi i capelli, fare il pieno alla macchina, me l'ho lavata e poi sono sceso a Plattamona a farmi un giro e ho trovato a Bruno lì. Sì, sono andata alla rotonda pomeriggio e poi ho fatto mettere le galasce della macchina, che era il brutto a zero. Sì, già me l'hai detto, che c'avevi le pastiglie consumate. Sì, sono andato a prendermi e da prenderle. Passare ai bagagli, Manuè. 20 euro. Sì, non costano tanto, dai. Poi sono facili a mettere, visto là come si fa. Sì, già ho visto, ma io con anche l'arrivaggio, non me l'avvosso. Ma Isu sì, è vero, me ne stavo dimenticando, Manu. Ciao Natalino e Emanuele, buonasera. Ciao Carlo, bonsoir. Non è che mi sai dire dove hai ordinato quell'apparato là che me lo voglio prendere pure io per l'estate? Il 9009 dici, Natali. Figlia. Ho ancora tanto la fattura, te la mando, così vedi la ditta. K. Ma la modifica in cosa consiste, oh Carlo? Che adesso non mi ricordo cosa voleva modificato lì. La modifica non toccano niente, la fanno tramite PC col campo, però se tu lo ordini con la modifica in quel sito non paghi niente, da altri siti ti fanno pagare la modifica 30 euro. D'accordo? Sì, ho capito. Praticamente consiste nell'espansione di banda, capito? Da tutto quanto da 25 sino a 30 praticamente. E poi tutti i modi di emissione, AM, FM, bande laterali, capito? C'ha pure shift di tutto, capito? Praticamente diventa un HF a tutti gli effetti. Di tutto e di più, ho capito. Eppure la potenza li aumenta e la modifica. In SSD sino a 50. Ma avevano detto che era 60. E vabbè, ma anche 50 va bene. La spittina, almeno non devi attaccare niente, è tutto lì, si misura tutto, il rosso, la potenza, tutto quanto, già è bellino, è bello completo. Me lo posso immaginare. Manuele, come mi senti? Una bomba, dove sei? Allora, adesso sono all'inizio di via Bogino, dove ci sono le porte, sto andando a lavorare. Benissimo, a me come mi ascolti? Forte e chiaro, ma anche prima ti sentivo bene. Io c'ho una base magnetica e quindi non so come arrivo dalle tue parti. Qui mi arrivi 9 Radio 5, mi arrivi benissimo. Bene, va bene, allora. Natalino, già sono vicino a casa sua, quindi immagino che mi senta anche lui a bombetta. Ti credo. Sì, dopo controllo, Natali, quando arrivo, perché sto guidando, già frugo nel cellulare e dovrei avere ancora le email che mi hanno mandato con la fattura, guardo la ditta così vedo il sito, praticamente mi è arrivato in 2 giorni, me l'hanno mandato con Bartolini, loro usano Bartolini e io però, anziché farmelo arrivare a casa, perché non sapevo se ci fosse o meno, perché a volte non ci sono e se no il corriere parte non ti trova e poi un casino a ripescarlo. I Bartolini usano i Fermo Point, praticamente sono dei negozi, magari ne puoi scegliere uno vicino a casa tua e praticamente te lo portano là e poi ti arriva la notifica, guarda che il tuo ordine è arrivato, lo puoi ritirare al Fermo Point che tu scegli, capito? Ed è comodissimo, eh? E beh, te credo. Rispetto ad altri siti, io ho visto per esempio su HM Radio, quel sito là, insomma, là costava 2,62 più la modifica, costava più di 280 euro, la spedizione tutto erano 300 euro, io ti mando la fattura e vedi compreso le spedizioni quanto l'ho pagato. Lo so che l'hai pagato un bel poco. Frugando qua e là, capito Natali, ho visto l'occasione, ho detto quasi quasi me lo prendo. Infatti bene, sta funzionando. Puglia, non è che lo stia usando molto perché in questo periodo ha avuto un po' di problemi, è morta mia suocera venerdì santo, quindi da quando l'ho avuto poca roba, sabato prima di Pasqua eravamo di funerale, quindi in questi giorni non ho acceso niente, giusto oggi che sto rientrando a lavoro. Però già va bene, ho avuto modo di provarlo anche con DX e ti posso dire che va benissimo. E cappa. Manuele, ancora ci sei? Scusa la lungaggine, ma ero da un po' che non parlavo con Natalino e quindi mi stava chiedendo queste informazioni e quindi mi sono un po' dilungato, dai. Tranquillo, non c'è problema, perché io intanto sto stuzzicando ogni tanto e ascoltando. Ehi, qua sono arrivato dove, cos'è, via Madonna della Mercede, dove c'è quella traversa di viale Porto Torres che ti fa andare in via Predanieta, davanti al cimitero praticamente. E allora dovrei stare a sentirmi a bomba lì. Qua ti sento bene, ma anche prima, anche prima. Un po' di traffico c'è, vero? Sì, riprendi Natali. Sì, cappa, sì, me lo posso immaginare a quest'ora. C'è traffico, sì. Anda bene Meda, che brutto vizio che ti è preso, gatta. Lo stesso vizio che c'avevo io. Poi stanotte c'è un volo tardi pure, mi fanno iniziare praticamente il mio servizio inizia alle 18 e finisco all'1 di notte. Alquanto scomodo. Qui sarai alle 2, da. le dura. Vabbè, dai, c'è chi sta peggio di me, capito, e quindi alla fine si accetta anche questo. Per me qua davanti al vialetto, dai, vedo un po' sin dove vi sento. K, cosa stai usando, quello vecchio che avevi prima? Sto usando il President B, quello President Bill, quello piccolino, capito? Però c'ho un apparecchietto attaccato, arriva fino a 40. Capo, ho capito. No, io pensavo stavi usando l'altro, quello che avevi prima a casa. No, negativo, quello già è aggiustato e lo devo ancora sistemare in macchina, devo vedere se trovo lo spazio per potercelo, diciamo, incastrare, così levo questo e metto quello là che è più performante. Beh, te credo. E anche quella banda laterale e tutto quanto. Infatti. ed esce anche con qualche watt in più, per cui non, magari no, non c'è bisogno di niente, capito? Esci con quello e vedo un po' se ci sta dentro il cassettino, me lo sistemo là e così lo lascio lì dentro. Infatti, almeno non si vede nulla. Ti fai l'impianto come l'ho fatto io, che la fai uscire dal dietro del cofano, la base magnetica, e così almeno non si vede nulla. Esatto, io attualmente ce l'ho così, la base magnetica è sempre dentro il cofano, non vedi niente, quando ti serve la piazzi, capito? E poi ti parcheggi, la togli, quando vai nei centri commerciali che ci sono i parcheggi bassi, che tocca, togli tutto e metti dentro il portabagagli. Come faccio io, infatti. Però io stamattina sono sceso a Platamona lì, perché avevo da fare delle commissioni prima, e ho trovato Bruno, ci abbiamo fatto quattro chiacchiere, ci abbiamo preso il caffè assieme e poi me ne sono risalito. È fatto bene, stamattina era anche bella la giornata. Io stamattina praticamente ho passato quasi metà mattinata tra il comune e Piazza Santa Maria, lì dove c'è l'ufficio anagrafe, e poi sono dovuto andare all'INPS sistemando le cose con mia moglie e niente, poi siamo rientrati a casa, ma erano quasi le 11, capito? E niente, adesso domani, no, dopodomani abbiamo la tumulazione, capito? Perché in settimana di Pasqua non facevano niente, hanno ripreso un po' tutte le attività oggi, e capito? E quindi ho queste cosine da sistemare, poi già avrò modo di provarla anche meglio quella radio nuova che ho preso. Ok, comunque condoglianze per tua suocera, non lo sapevo Carlo. Ok, anda bene Meda. Eia, grazie Natalie, niente, tanto per come era, stava soffrendo, era un mese quasi in sofferenza, gli ultimi 15 giorni era ricoverata a Ostiri, quindi con mia moglie stavamo viaggiando quasi tutti i giorni a Ostiri, e poi alla fine ci hanno detto che insomma aveva difficoltà respiratoria, funzione renale. Sì, ho capito, e purtroppo meglio che se l'abbia presa il Signore per soffrire, perché se stava soffrendo così è meglio che se ne sia andata, almeno sarà meglio dove è adesso. Carlo, non ti sento più adesso, ritieniti salutato, perché mi arrivavi basso basso ed eri incomprensibile se mi stai ascoltando. Poi è entrato Gianni, deve essere, c'aveva un rumore, un innesco, qualcosa. Avanti Gianni, ancora a te. Non ho capito bene, perché qua ero sotto quella serie di ponti e quel REM è molto alto e quindi non ho capito bene, forse è entrato Gianni. Ciao Carlo, dai, mi dai un controllo per cortesia, che sto provando un apparecchio. Gianni, qua mi arrivi con il chiaro, la 5 e con Dottana su questa radio qua che si K, dai. Già andavei, sto provando un apparecchio nuovo, dai. E poi ti dirò Carlo. Ehi Gianni, ma sei a casa o in macchina? Di nuovo. Già, adesso hai emesso un ronzio fortissimo senza modulazione. Ciao anche a Natale. Sono perché era un po' fermo questa radio qua. Ehi, ciao anche a Natale. Ehi, gliel'ho detto che c'aveva un rumore. Sì, ciao anche a Natale, a Carlo, a tutti, ciao. Ciao Marco, non so se mi senti, c'è molto QRM oggi. Sì, sono anche liscio io, 4 watt, K, ciao a tutti, ciao, fate, sono a Cussi oggi. Oggi pure a Cussi, sì, andate. Quello sto pagando le gozzoviglie di Pasquetta, me. Le voci dal capo. Vediamo se mi ascolta, Carlo, mi ascolti a me? Sì che ti ascolto. Ah ok, ti ascolto un po' bassino ma ti ascolto, ciao a tutti. Ciao Rugarie. Sì, sì, forse è chiaro qua. Super 5, radio, segnale fondo scala. Ciao Luca. Già, se sono un bel male. Io? Hola, 1, 2, 3, 4. Cambio microfono, hola. Arriva la supposta, dici il lineo. No, scherzo, vedi si male, non mi piace già. Cioè, quando dici bene te lo dico, mi piace. Poi forse dovrei cambiare il microfono, prova. È un po' nasina la modulazione. Marco, c'è un tappo di spumante qua se ti serve. Ehi, non ce l'hai autofilettante, no? Ehi, no, non c'è problema, lo facciamo autofilettante. Ma Carlo dove sta andando? Al trabacco? Interrogativo. Sì, purtroppo sta andando al trabacco che è di turno stasera. Fino a 25. Ehi, avete parlato in 3. Beh, 5. E beh, Luca. Luca a posto, sì. Aspetta, sta chiamando Carlo, sì, Carlo. Ho detto che mi arrivi a bomba qua. Ah, speriamo di non esplodere. Ma veramente forte la radio. La radio è Super 5, ma grande grande. Sì, anche Marco lo sento bene. Sono prima del ripositore qua. Ehi, ehi, anche a te sente bene Marco. Oggi sono pure liscio, mi 4 watt, non ho messo niente. Ciao anche a Emanuele. Ehi, ciao Carlo. Non è Carlo, è Marco, Emanuele. Ah, scusa, Marco lì. E oggi sono nudo e crudo, sono piccolo e nero. Marco, duro, duro. Sono scappato. Ma adesso io faccio quello che stava facendo Emanuele poco fa. Parusicuru. Natalì, quell'apparato te l'ha dato? No, non ne prendono. Perché? Guarda che c'ho anche il manuale in italiano, mi di quello. Oh no. Però un giorno lo pensi così, un giorno colà. Tu prendi a futtidini, poi si vedrà, domani si vedrà. No. Nisba. Perché sto finendo qua la 4 corsie, tiro per la provinciale, adesso sono più bella, non so. Arrivare più la bella, Marcolino, arrivare più la bella, lì c'è il radio, non arrivare più la candela. Luca. Dammi un controllo adesso, Natali, come sta andando? E adesso già va. Ma sembra una prostituta. Parla Gianni. Già, anzi più meglio, anzi più migliore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, ci ha attaccato l'altro apparecchio per ascoltare. Sì, già è migliore, prima era nasina. Copiato. Dai. Hola. Va bene, dai, dai. Bene, dai. Restauro. Cava di positivo. Questo qui è un bellissimo apparecchio. E che apparecchio è, già? Si chiama Palomar SSB 600. Non Polmar, Palomar. Palomar SSB 600. Sì, così va bene. Prima era nasale, cioè molto migliore. Vabbè, vado a controllare quanto mi dà, dai. Sì, ho detto Manuè e Natalino, diciamo sempre così, anch'io lo dico che non ne vale più la pena, intanto siamo sempre in oghe. Sì, quello senz'altro, perché la testa gira che ti rigira, andiamo sempre alle radio. Sì, ma non dico di stare tutti i giorni come era una volta, tutto il giorno in radio come facevamo dalle 3 in pomeriggio fino alle 10 di notte, ma ogni tanto, quando uno non deve uscire, non sa cosa fare, due chiacchiere così, né più del meno, le perde il diviso e passa un'oretta. Sì, quello sì, ma non vale nel senso, non vale la pena perdersi il radio. radio CB, capito? Se devi spendere, devi prendere una radio come si deve, una radio che ti fa tutto in pratica, ma non radio, non so, radio di queste frequenze qua, dai, che passano dai 25 ai 28, non ne avrei speso soldi. Avrei speso i soldi per prendere una radio come il cavolo comanda. Gala, gala, gala. E quanti canali c'ha già quella radio? C'ha le bande naturali. Ah, sì, devo controllare, non l'ho ancora controllato. Cazzo, no, e dove l'hai buscata quella radio? Ma sta lì, 40, però c'è anche le bande laterali. E Carlo, dove ribatto? Ti copio a malapena, Carlo, perché c'è propagazione. Hai detto, ripeti? Niente, l'ho perso. Chi lo copia? Attenzione, Carlo, ascolti doppio room, cambio. Ha risposto, ha detto che ti sente, però è praticamente il QRM 5, lui 5 e mezzo. Carlo, mi ascolti? Sento che parla, ma non capisco cosa dice Marco. Dimmelo. Nemmeno io, è proprio è arrivato nel QRM, nella propagazione, dai. Carlo, ritieniti salutato, dai, buon lavoro, buon turno e buon tutto, ci risentiamo. Con Checo, come va? Già, andrebbe bene, ma questo ecco, wow wow wow wow wow wow. Va bene, lo lascio così, va bene. Discretamente. Mamma mia, come sto. Ora lo lascio scaldare un po' e poi lo metto in verniciatura. Natalino chiedeva dove l'hai trovato. Vabbè, non l'ho trovato. L'ho comprato. C'è il fornitore segreto, non lo vuoi dire? Dopo mi guardo le foto, Paloma RSSB, così è. Palomar. Questo microfono originale non va bene, quindi sicuramente è un po' oscillato. Allora, è capibilissima, è capibile, però è nasina, un po' nasina, leggermente citofonica se vogliamo. Però è capibile, ricordati. Cioè, in caso di emergenza lo puoi usare e sei capibilissimo. Sì, ma se questo qua è più forte, va meglio. Naturale. Vabbè. L'unica cosa che c'è che è marrone, è presente l'MRS 200, è così, non mi piacciono i coperchi marrone, me lo faccio nero. È vero, non si sa perché avessero scelto di farlo marrone, color cacca praticamente. Sì, ma già ci pensa Gianni è un bravo verniciatore. E come lo verniciate, a bomboletta oppure, beh, presumo, mica col pennello, no? Bomboletta, esce perfetto. Guarda, piuttosto che marrone sarebbe stato meglio verde oliva, un verde militare. No, non mi piace brutto, a me piace nero e blu, non mi piacciono gli altri colori. Grigio scuro sì, ma nero è migliore secondo me. Vabbè, anche quello è vero. Allora, io avevo visto un Cobra 29, nucleo digitale, quello che chiamano Superstar, Cobra 29, versione limitata, versione US Army, cioè versione esercito americano, con la stella era verde oliva, con le serigrafie bianche, proprio di stile militare, ma devi vedere quanto era bello già, una meraviglia, da mettere in una Jeep, me. Sì. Così sì, una macchina tipo militare devi avere, così. Sì, una bella Jeep o simili, verde oliva, anche con i comandi spartani, tipo autocarro militare. Mamma mia, un sogno. Mi accontenterei anche di una Watts, quella sovietica, me. La Watts, te la ricordi, quella specie di calmato. Sì, adesso rimetto quel microfono là, perché ho notato che c'ha tipo una rotellina per il volume. Magari è quella che bisogna toccare. Ah boh, però la timbrica secondo me rimane quella. Natalino, riprendi. Bruttissima modulazione. Ciao Claudio, ben entrato. E anche ben uscito, bruttissima modulazione, ciao. A me stai dicendo qua, ciao. Sì, bruttissima modulazione, non mi piace. Questa stai dicendo? Sì, è tempestata. Bruttissima modulazione, credimi. Guarda, adesso forse era troppo alto. No, no, più alti è peggiore. Vabbè. Non più non posso fare. C'ho questo il microfono, lascio questo. Poi ti porto appresso un fruscio, non lo so, boh. Sei in Santiago Nova neanche, non lo so cosa hai combinato. Va bene. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao, ciao, qua. E Marco, da te quando sto arrivando? Aspetta, che guardo il segnale, vai. Anche il prefor, guarda se il segnale è lo stesso o se è diminuito. Comunque c'ha 5 watt. Allora, sei tra 9,20 e 9,25. Però in effetti, se tu gli abbassi la modulazione, probabilmente migliora. Aspetta che ce l'ho tossa. Guarda, adesso l'ho abbassata. Non lo so già, io sto usando quel baracchino omologato che l'altoparlante è abbastanza piccolo, però rispetto all'altro è molto migliore, l'altro era nasale, era proprio nasale, è leggermente citofonica. Vabbè, questo è. Andare. Ma la radio, che radio stai usando? Cosa? Che radio stai usando? Palomar, radio Palomar SSB 600. Palomar o Palomar? Non Palomar, Palomar. Palomar, un vintage. Papa. Vabbè. Vedi tu, a me non piace quella modulazione, sei molto strano, non so, a prescindere che segnale c'ha 5 watt, vabbè, ci può stare, ma la radio non so cosa l'ho abbinato, è una radio un po' strana. Io ho il presidente di Washington. Collegato West, riparti, collegato West. Perché rispondo a volte. C'è il presidente Washington, io con l'MB più 5, ma se te lo faccio sentire è uguale a un K, non so che microfono gli hai messo. Come l'ho avuto quella parità, lo conosco. Cosa? Ho avuto quell'apparecchio. E questo non ha pronto la scatola, serve dentro la scatola, mai usato, col nylon, praticamente fiammante. L'ho provato l'altra volta, non è vero, ma l'hanno dato, l'ho messo lì da una parte. Vabbè, comunque, non so che microfono abbinato, mi hai detto. Ah, il Proxer, l'abbinato. Proxer, vabbè, notti perché è strano, già non sono abituato a sentirti così, vabbè, comunque se va bene, lascia stare, ok, dai, ciao ragazzi che rispondo in VHF, ciao Marco. Ciao Claudio, tu sicuramente sei un altoparlante più grande, poi c'è l'orecchio più allenato, come dire. A me l'udito anche sta andando non benissimo, e quindi, però rispetto a altre modulazioni è più capibile, più tutto. Già, e non so, tu però se ti ascolti con l'altro apparato non rende, capito? Ti dovresti registrare e ascoltare, capito? Non ce l'hai un mic neutro, un mic normale, a capsula normale, neutro, che esca bene, in modo da capire di base come c'è l'apparato. È un po' cupa e rimbombante quella radio, ecco cosa c'è. Anche il microfono è di quelli che ecco, capito? Ma malgrado tu lo abbassi del tutto, un pochino c'è sempre. Non è male, è la timbrica che è brutta, Gianni, capisci? Uff, è una timbrica strana, che c'è una patata in bocca, boh, non so, ma boh. Io ti sto ascoltando col K, quindi meglio di così non ti posso ascoltare. Vabbè, se va bene, lascia stare, non so cosa dire. Ciao, ciao ragazzi, ciao Natalino. Ciao Claudio, entra un po' più spesso. Oh già. No, fra un po' mi sentite poco più perché ho tolto l'antenna e metto le direttive di nuovo. Ciao, ciao, ciao. Ma chi è quello, Claudio Gargamella? Ciao Gagare, ciao, arrivederci. Ma quello arrivo sì, pensavo che non c'eri più in vita, ci sei sempre invece. Ci sono ma non qua, ciao. E noi siamo di infima categoria, non possiamo parlare con certa gente, capisci? Già ci puoi parlare, ciao Natali, che sono impegnato, già ascolti tu, sto facendo attività amatoriale, ciao. E non sto neanche più ascoltando, me ne passa da ragana di duccio. Infatti adesso chiamo un paio di amici, ne posso cavare pure l'antenna. Ho già spedito quelli là che avevo, così almeno mi è rimasto solo il 3.900 e mi vendo pure un visto, non ho avuto un cavolo. No, siete sempre pochi. Vabbè, dunque, rimanete fin quanto potete. Dai, vi saluto che c'ho le VHF che mi stanno chiamando. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Dalla vita alla Bazzola, al Bazzola, dalla vita al Bazzola, che sta fottito, vuole che cogono, ma, buono, ma. Dalla vita già dal Bazzola, che sta fottito. Marcolino, il telefono. Oh yeah, su che andiamo, su. Oh yeah, su che andiamo, vieni a scattaluppè, su vieni. Ah, tutti fuggiti siete. Sì, avanti. L'alba, e beh, no, stavo qua mettendo a mano i fili, i filettini, i cavi, e ho provato a accendere un attimo questo apparato così per fare delle misurazioni, e ho sentito questo beep e non sapevo che fossi tu, però sono io, non ti preoccupare. ho sistemato tutto, l'antenna, il cavo, tutto quello che c'è. Sì, ma perché avevi avuto problemi di antenna? Piccato di cavo, perché non di antenna. Quindi a un certo punto ho fatto il buco, ho comprato la punta, l'ha pagata 25 euro e ci ho messo il cavo grosso. Quindi a un certo punto c'è il grosso è anche il 58, hai capito? E me lo sono più tranquillo e sono perfetto alla verità. Sì. E qua hanno dato, per giovedì hanno dato vento di tipo burrasca, c'è una specie di ciclone che passerà sul Tirreno, così dicono. So che qua non fanno che fare allerte meteo e per fortuna non succede mai niente. Capisco che sia per la, come dire, per prevenire, cioè è meglio dare la notizia peggiore e poi non succede quello che prevedono, ma sembra fare allarmismo con questi articoli su internet. Sono fatti per fare click, secondo me, perché clicchi la pagina e ti appare pubblicità sopra, sotto, al centro, di lato, a tendina, a scorrimento, orizzontale, di tutto. Cappa. E già me sono raccolto anch'io, infatti, di quello. Sopra, sotto, a fianco, eccetera, eccetera, ma che se la prendo in culo. Sì, perché così no, non puoi leggere nemmeno le pagine internet, cioè devi stare a chiudere 10.000 cose e poi ogni tanto ti si riaprono. E anche se tu fai il blocco dei pop-up, non serve, c'è un sacco di roba che ti si apre. Anche perché, che ne so, molti giornali dicono, allora, tu stai guardando gratuitamente l'articolo, però ti devi sorbire pubblicità, capito, se vuoi leggere l'articolo gratuito, se no ti abboni e quindi devi accettare almeno i cookies essenziali, certi ti permettono di rifiutare tutto, ma alla fine non cambia il risultato finale, sempre la finestra si riempie di roba non richiesta, cappa. E infatti così, già me sono accorto. Come ascolti con questo, cioè, questo è il microfono Salerta, adesso lo stacco e attacco nel MP5, 2 minuti, così ti faccio sentire, vediamo cosa cambia. Via, provo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Vabbè, c'è un innesco perché ti stai autoascoltando, Antonè. Per il resto dire che va bene, prova a spegnere l'autoascolto, vai. Aspetta, forse c'è il cane che siete nell'innesco, 2 minuti che stacco. Come va adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Basso di me il microfono, ma non era l'autoascolto, cos'era, un innesco? No, è arrivato il cane, sì, lo sai. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, va un po'. È un tantino meglio, adesso è quasi una modulazione normale. Quasi, vabbè, non ho il rapporto di paragone, ci vorrebbe qualcuno con un mic normale che entri. Cosa hai detto del cane? C'è il cane, è venuto a rompermi le balle, perché cazzo sentiva, io non sentivo per niente la verità, ma lui sì, il fischio, è venuto da me e infatti mi ha fatto staccare tutto. Antonio, sono col volume minimo, non è che puoi mettere sa delta di nuovo? Non capisco tutto nel frattempo. Allora, power, dove cacchio è? Tutto strano sto baracchino, ma è un'ora buona, forse è qua, vediamo. Niente, questo non è questo, cacchio è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, guarda un po'. adesso il volume è bello forte. Ehi, stavi dicendo che il cane, cosa è successo? Che è venuto il cane ad aprire le balle, intanto cadevi, staccane tutto e basta. Il cane è venuto a dirti di staccare tutto e basta. Davvero, non ti sto facendo male. Ma in che senso, scusa? Non è solita, me lo chiedo. Boh, è venuto qua. Tu dice, stacca quel microfono e attacca l'altro, mi ha detto. Simona, basta, no, cosa che devo fare secondo te? Infatti ho fatto così, infatti la verità è stata totalmente diversa. Ascolta, la radio che radio è, a parte il mic? Sempre che vuol dire? Ah, ma il bip dov'è? Nel mic oppure? Esatto, sì, bravo. Ciappa, io sto usando il president, un president, McKinley col mic di serie. Ciappa. Stavo per fare il riso, oggi era Cussi, e quindi stanotte riso in bianco e acqua. Boh, la mia cena è quella, riso in bianco e acqua, basta, nient'altro, non devo mangiare pasticci. Per oggi, da. Figurati, aspetta, attacco un attimo. Dato il microfono, 2 secondi. Eia. Nel frattempo vediamo se riesco a arrivare a capo di questa cosa qui. Allora. Questo non è. Eccolo qua. Allora. Così è al minimo. Prova 1, 2, 3, sì. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il microfono MB5. Boh, se non me l'avessi detto io non avrei sentito differenze, forse. Non c'ho l'orecchio allenato, Antone. Cosa vuol dire? Aspetta. Guarda. Cazzo, fischiato, dai. È un cesso questo microfono, è veramente un cesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo. 1, 2, 3, guarda un po' come va adesso. Un attimo, stavo controllando qua i watt, sì, già è quello il comando, e qua è strano, sta parecchio. Addirittura la potenza in trasmissione qua la puoi regolare solo in trasmissione, capito? Devi premere un tasto che non mi ricordavo e poi premere la manopola di canali e ruotare i watt desiderati. E poi devi confermare tenendo premuta la manopola di canali, insomma tutto lo laborioso, e dai. Ho capito. Ora. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda un po', com'è? Radio. Gazè. Ma quindi confermi, cos'era una... non era l'autoascolto, era un innesco proprio del mic. Ehi, questo è un MP5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sorpedo ce lo butto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Antone, io ti sento bene, bene, l'importante è che non alzare troppo. Ma cos'è, un problema di impedenza o roba del genere, o di scaramatura, cos'hai? Non lo so, la verità non lo so. Cappa. Poi ti avevo mandato a Pasqua gli auguri, però non so se tu ce l'abbia attivo WhatsApp. No, ce l'ho WhatsApp attivo sul telefono di Giampiero. Cioè, lo usava lui più che altro, capito? Quindi a te non ti vedevo per niente. Se ti avevo mandato subito gli auguri, ya lo sai. Ehi. Vabbè che come festa religiosa, cioè come che non ci sia. Semplicemente ci si riunisce, si mangia, al limite qualche regalo qua e là. Tutto lì. Cos'altro ti posso raccontare? Non saprei. Lo so, sono te. Ora, va, vediamo un po'. Ora. Com'è la radio? Meglio o peggio? Né meglio né peggio. Cioè va bene, allora da. Questo va bene, quel microfono va. Grazie a Dio. 1, 2, 4, 5, 6. Sistemato l'apparato, tutti i cibigliati hanno infatto, cioè va quello. Aspetta che attacco l'altro microfono e siamo a posto. Ok. Guarda un po', uno. Ehi, cazzo, una cosa diversa è questa, La vetta, Con un'amplificazione allucinante questa. Sono a minimo, figurati tu. Sì, Missa Delta poi avevano sempre una bella timbrica e infatti chi poteva era meglio che se le accaparrasse all'epoca. Quello fino in che anno li vendevano nuovi? Solo anni 80 o anche 90? Ti ricordi niente? 90. Sì, quelli andavano presi e accaparrati perché come le sciure avevano una timbrica cristallina. Mentre vabbè altri un po' avevano timbriche particolari, io sono più per la modulazione neutra, cioè senza timbrica o metallica o acute o cupe, cioè la voce deve essere più naturale possibile. Poi vabbè, se amplifichi un po' di più fa un po' di effetto stanza, capito? Tutto lì. E già lo sono i fatti. Lo so parecchio, questo è tipo il microfono, ma ormai è sparito l'amplificazione di tutto, e ce l'ha se lo tiene, e ce l'ha quello. E tu te lo ricordi, questa Delta, non so se fosse l'ultimo modello, quello grigio, piatto, c'aveva il gambo praticamente che era largo e piatto. Ecco, Master Plus forse, o addirittura ancora più, e forse aveva anche il cursore, i comandi rossi mi pare, molto futuristico diciamo per l'epoca. Già me lo ricordo, non ti preoccupare di quel microfono, Ecco Master, e anche l'altro. Affanculo a me quando l'ho prestato, guarda. Sai cosa lo devo fare? Mi devo tagliare i coglioni, hai capito? A un certo punto mi devo tagliare i coglioni e prestarlo. Perché ho prestato un microfono che se ne vale più del proprietario, non so l'altro. Ah, mi ricordo qualcosa, sì, che aveva detto che stavi sbagliando, che quello era il suo, che non era il tuo, non ho capito. Cazzo era il suo, le balle era il suo, che era il mio quello, doveva prestare, cioè io l'avevo prestato a lui, il discorso è quello, ma grazie a Dio già ho visto che, come si dice, no? Le cose vengono al pettine a un certo punto, quindi lui ormai non vuol dire una cosa, ma per offenderlo, comunque sia, non si muove più, quindi a un certo punto sono a posto io ciò che mi volevo me l'ha dato. Solamente in cosa? Per quello che gli successo a lui, non per altro. Vabbè, comunque uno ce l'hai, quello è tuo, il Sa Delta, sì. Guardate che funzioni bene, che adesso a comprarli usati da internet magari sono toccati o gli cambiano la capsula, capito, o gli fanno altri intrallazzi, non lo trovi mai originale, a meno che non sia una persona super corretta, che ce l'aveva già da tanto se l'ha tenuto bene anche, che non è scacciavitato, capito? No, se l'ha venduto, non ti preoccupare. Quindi non me ne frega niente. A un certo punto ha pagato ciò che ha avuto, ha pagato, quindi a un certo punto si è proprio in culo. Sì, ascolta, e poi gliel'avevi sistemata Giovanna l'antenna? Sì, ce l'ha giù, ce l'ha, la verità. Ce l'ha giù, e il fatto è che più che altro non posso più, cioè, in pratica, devo metterci il cavo, sollevarlo sopra, dopodiché, quando è nel condominio, come si deve fare, installato, come si dice, no? Come si deve, è a posto, se no niente da fare. Comunque sì, vabbè, c'ho pazienza, non è quello il problema, c'ho il cavo 213, se non è quello sarà il 58, quello che è. Comunque ce l'ho, cavo, Puglia. KK, prova. Che giornata oggi, mi sono bruciato tutto, guarda. Non sono andato a fare la spesa perché ero a Cussi, mi ha stancato anche molto e mi sono giocato anche l'uscita serale di dalle 9:30, dai. Ma forse è meglio così, da meglio stare a riposo. E da Cussi? Come vai a Cussi? Sara? Allora, sì, forse è qualcosa che ho mangiato, ma ce l'avevo già a Pasqua un pochino, le avvisaglie. Ogni mezz'ora in bagno oggi, non dico che fosse, adesso non voglio entrare in particolare, non dico che fosse diarrea, però era morbida, e andavo una volta e facevo un po', e dopo mezz'ora di nuovo lo stimolo, dopo tre quarti d'ora un altro stimolo, insomma ero avanti e indietro, e quindi è come che la pancia avesse bisogno di intestino, di liberarsi, ecco. Ho capito adesso. Quindi avevi problemi di cosa? Di intasamento, cioè come si dice, no? Intasato, eccetera, eccetera. Ma comunque sia, tranquillo, non succede nulla. Ogni mattina, guarda, non c'è più un tubo, la verità, Sto succedendo io, basta che tu mangi appena di, cosa posso dire, di roba da mezzini, non lo so, quello che è, due da mezzini, guarda, basta due di quelli e tu stai tranquillo, sei a posto. Si chiamano problemi di canna. Lasciate la canna, vabbè, comunque due tamezzini, poi se sono due tamezzini piccanti, questa è proprio tu per la canna, cosa ne so io. Sì, vabbè, quello è, perché io sto sempre a mangiare anche pasticci, dolci, fino a notte tardi, o gelati, o cioccolato, o budini, o yogurt, una malattia è. E quindi ogni tanto l'organismo si ribella, capito? Dovrei darmi una calmata. Ah, beh, quello sì. È che sono goloso, d'altronde io non bevo, non fumo. E qualche vizio ce l'aveva bene, non, lo sto trombando, quindi te l'ho detto, qualche vizio devo averlo. Almeno se mi togli anche la roba da mangiare, che cosa faccio? Infatti. Ti volevo dire quello, infatti. Non bevo un tombo e sei a posto. Aia. Adesso mi sa che metto il riso a fare, perché mi tanto a quando abbollire l'acqua, che non bolle mai. Poi il riso, loro dicono un quarto d'ora, 16, 17 minuti, io lo lascio 20 minuti buoni, lo voglio morbido. E quindi ci passerà un bel tempo, dai, prima di mangiare. Allora comincia a scendere il fuoco, Antonio, preparo tutto, dai. Se non dovessi rientrare, ritieniti salutato, ok? Se sentiamo magari in un orario più, un po' più presto, dai. Beh, come vuoi tu, dato sono qua a Balacchino, quindi tutto tutto. Sono qui, quando vuoi tu, rientra. Va bene, comunque nel caso dai, ritieniti salutato, ok, se non dovessi rientrare. Ciao Antonè. D'accordo, ciao, alla prossima, stammi bene, buonanotte, buon tutto.